America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the President of Mexico. Quella di ieri doveva essere una conferenza stampa con il presidente messicano Calderón e Barack Obama ha finito con l'affrontare a tutto campo la questione libica, scendendo in campo per la prima volta in modo abbastanza completo in prima persona. Sentiamo alcuni dei punti principali che ci danno un'idea di quella che sarà la strategia americana per liberarsi di Gheddafi. The United States is helping to lead an international effort, put in place unprecedented sanctions to hold. Il primo punto riguarda le sanzioni. Il presidente degli Stati Uniti sottolinea che la comunità internazionale con Washington hanno messo a punto delle sanzioni senza precedenti, congelato i capitali libici, i capitali di Gheddafi, della famiglia di Gheddafi, ma anche più in generale alcuni dei depositi libici all'estero, 30 miliardi di dollari soltanto negli Stati Uniti, per dare un messaggio molto chiaro. Le sanzioni dunque sono il primo punto, di questo se ne è parlato molto oggi, soprattutto il New York Times ha fatto un interessante articolo in prima pagina uscito questa mattina, in cui descrive la situazione soprattutto del fondo, circa 50 miliardi di dollari, il fondo libico che ha investimenti non soltanto in Italia, come sappiamo, con Unicredit, con la Juventus e con altre aziende italiane, Finmeccanica, ma a livello internazionale. Aveva sviluppato questo fondo una serie di rapporti molto approfonditi, per esempio in Gran Bretagna, in Francia, in Germania e così via. Ecco, quale sarà la destinazione di questo fondo? C'è un punto interrogativo. La risposta che dà il New York Times per ora è che paesi come la Gran Bretagna o la Francia sembrano prendere le distanze e isolare o comunque congelare queste partecipazioni. Let me just be very unambiguous about this. Colonel Gheddafi needs to step down from power and leave. Il colonnello Gheddafi deve andarsene, questa è la cosa giusta da fare per il suo paese e per la sua gente. Voglio che questa mia dichiarazione non sia assolutamente ambigua e in effetti Barack Obama non poteva essere più chiaro. Dunque gli Stati Uniti e la comunità internazionale partono con le sanzioni, l'obiettivo è che Gheddafi se ne vada senza dunque che ci sia necessità di un intervento militare. Però sentiamo subito dopo il presidente in qualche modo vuole dimostrare di essere pronto a tutto. I have therefore approved the use of US military aircraft to help move Egyptians who have fled to the Tunisian border. Ho autorizzato la mobilitazione dell'aviazione militare per aiutare i cittadini egiziani che si trovano al confine con la Tunisia, al confine, soprattutto al confine con la Tunisia, per poterli riportare a casa. Ho autorizzato la mobilitazione di altri aerei civili per aiutare le decine di migliaia di cittadini stranieri che si trovano in Egitto e che sono ai confini a tornare nei loro paesi. Ecco, questo è il primo sintomo dell'escalation. L'intervento è umanitario, ma la mobilitazione è delle forze armate. I want us to be making our decisions based on what's going to be best for the Libyan people in consultation with the international community. Ecco, Barack Obama elenca una serie di punti che debbono essere presi in considerazione prima di procedere con un eventuale attacco militare. Il primo è il coordinamento con la comunità internazionale. Gli Stati Uniti non faranno un'azione unilaterale. Siamo in consultazione con la NATO, dice Barack Obama. Abbiamo già coordinato la nostra azione con le Nazioni Unite, soprattutto per far fronte a possibili rischi umanitari. Il presidente ha detto che potrebbero esserci dei problemi, per esempio per la distribuzione di derrate alimentari nel paese, che la popolazione civile potrebbe trovarsi in difficoltà. E dunque aggiunge l'aspetto chiave: ci sarà un approccio comunque multilaterale dal punto di vista militare alla crisi libica. So what I want to make sure of is that the United States has full capacity to act potentially rapidly. Ed ecco che il presidente chiude il cerchio. Nel momento in cui l'azione diplomatica ottiene un coordinamento della comunità internazionale e un'autorizzazione a intervenire in caso di problemi, ad esempio, umanitari, nel momento in cui Gheddafi insisterà a restare al suo posto e continuerà a infierire sulla popolazione civile, ecco, il presidente dice: voglio avere tutte le opzioni aperte, quindi per trasformare quella che oggi è un'operazione di aiuto umanitario in una vera e propria operazione operazione militare. Direi che questo è il quadro più completo che abbiamo avuto finora della posizione americana. Sappiamo che vi sono resistenze a un intervento americano. Quelle più forti, che abbiamo sentito l'altro giorno in Congresso, vengono proprio dal segretario al Pentagono Bob Gates, il quale ha detto ad esempio che partire con una no-fly zone comporterebbe subito un attacco militare, cosa che evidentemente abbiamo visto gli Stati Uniti non sono ancora pronti a fare. Il presidente tuttavia ha sottolineato che la no-fly zone resta una delle opzioni. Ecco, vorrei parlare di questo sviluppo, di questa situazione con Giola Palombara, professore emerito a Yale di scienze politiche e di business. È stato un diplomatico americano che ha passato molti anni in Italia, è stato il responsabile della divisione culturale. E dunque, per cominciare, chiedo alla Palombara come mai ci sono delle resistenze soprattutto al Pentagono ad accelerare o a partire subito con un'azione militare. Bob Gates proprio in questi giorni ha spiegato chiaramente una sua paura, che noi stiamo cercando come paese di estenderci fino ad un punto molto pericoloso, cioè estenderci militarmente, e lui vorrebbe evitare che il suo paese cadesse di nuovo in un'altra situazione molto difficile proprio in quella zona. Infatti, ho capito, nel caso del senatore Lieberman sappiamo da decenni che lui si ritrova fra i falchi di questo paese, e John Kerry si ritrova fra i cosiddetti liberals. Ideologicamente il Kerry, come tantissimi liberals del Partito Democratico, sono disposti ad intervenire, perché vorrebbero naturalmente che sparisse o che in ogni caso venisse disfatto e battuto il Gheddafi. Ma c'è una posizione ambigua secondo te da parte del presidente Obama, che non è molto decisionista? Una posizione ambigua precisamente per la stessa ragione che una certa ambiguità va registrata in Italia. Cioè, c'è l'aspettativa di vedere in che direzione andrà questa situazione libana, no? Gio, c'è una posizione, tu stesso l'hai detto, un po' ambigua anche del governo italiano. Non dovrebbe l'Italia, che nel Mediterraneo, davanti alla Libia, proiettata in questa situazione, prendere un po' in mano e gestire questa situazione? Direi di no, proprio perché, dato il livello di investimenti economici italiani in quel paese e dato la situazione ancora troppo confusa di come andrà a finire a Palazzo Chigi, mi sembra che ci sia lo stesso tipo di problema che abbiamo a Washington, e cioè finché non si sa di più chiarezza in che direzione andrà a finire questo problema, io mi aspetto una continua ambiguità e da parte americana e da parte italiana. Secondo te è possibile che Gheddafi possa prevalere e riprendere il controllo del paese? Beh, non direi che lui sia in grado di riprendere permanentemente il controllo del paese, dato quello che è già successo. Però non si sa di sicuro per quanto ancora lui potrà durare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Bob Dylan in Cina. Beh, il governo cinese ha impedito due volte l'anno scorso che il grande cantante potesse tenere dei concerti a Pechino, a Shanghai. Quest'anno c'è una nuova richiesta, forse ci sarà un passo in avanti. Speriamo che capiti, sarebbe un concerto storico. E dunque a Bob Dylan dedichiamo la canzone del giorno, Like a Rolling Stone. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.